Roma 3, ciao. Ciao a tutti. Noi abbiamo occupato la facoltà un'oretta fa, dopo un'assemblea molto partecipata. È la seconda occupazione che Lettere fa in questa settimana. Tutto abbiamo intenzione di mantenerla fino al 14, perché il 14 qua si svolgerà un anno accademico fondamentale in cui vogliono approvare un paio di progetti che ricalcano sul piano dell'Università di Roma 3 il progetto della Gelmini. Questi progetti in particolare sono la privatizzazione di una parte dell'università tramite una fondazione e soprattutto, cosa veramente ancora più sconcertante, una scuola d'eccellenza parallela, gestita con fondi del Ministero, parallela all'Università Pubblica di Roma 3. Noi l'abbiamo detto al rettore ormai da mesi, che l'hanno detto anche i pescatori e i lavoratori del TAP, che questi progetti vanno assolutamente nel senso opposto dell'università pubblica, della piena accessibilità per tutti e tutte. Il rettore ha risposto mettendo il stand accademico il giorno di una pubblicazione importante, il 14, in cui a Roma appunto i movimenti scenderanno in piazza per sfiduciare il governo Berlusconi. Noi comunque vogliamo appunto prendere questa facoltà, ne prenderemo altre nei prossimi giorni e fino al 14. E il 14 abbiamo la ferma intenzione di bloccare quel stand accademico e poi di partecipare alle mobilitazioni cittadine. Questa insomma è la risposta che vogliamo dare a questo rettore, chiedendogli anche di mettersi, visto che lui contava sul fatto che la riforma Gelmini sarebbe già passata in questi giorni, invece il poveraccio deve ancora aspettare. È evidente che se la riforma non passa, entra in crisi anche questa gestione dell'Università di Roma 3, e credo che il rettore debba prenderne atto e appunto debba dimettersi. Benissimo, siamo perfettamente